Rassegna eventi. Torna su Radio Wombat la consueta rassegna degli eventi settimanali a partire da quest'oggi, lunedì 5, con un ciclo di incontri per l'autodifesa sul lavoro. Ciclo iniziato già diverse settimane fa, organizzato da Potere al Popolo Firenze e Camera del Lavoro Firenze. Il 5 novembre il tema è Ciò che mi spetta. Parleremo di doveri e poteri dal datore di lavoro. Di datore di lavoro e retribuzione, tutto questo al Circolo Alci del Campino in via Caccini. Martedì 6 invece, studenti contro il razzismo, assemblea organizzata dal collettivo universitario autonomo alla facoltà di lettere e filosofia della piazza Brunelleschi. Questo è il comunicato: siamo convinti che l'università debba essere un luogo schierato contro il razzismo, per questo vi invitiamo alla prossima assemblea del CUA che si svolgerà nella sede Brunelleschi. Prendiamo posizione perché il silenzio è complice. Portiamo questa posizione dentro e fuori l'università. Sempre martedì alle ore 22 presso il Next Emerson, Bologna violenta suona 1 bianca, Jeep Peters. Ad aprire la serata l'occhio di Amsterdam, la poetica silente di Jeep Peters. Proiezione e commento dal vivo di filmati di Super 8 olandese del classe 1952. Jeff Peters è il filmmaker sperimentale e intimista. Mercoledì 7 sul fronte del sisma a ARC, costruendo, scuola di architettura Santa Verdiana, alle 18, presentazione del libro Sul fronte del sisma del gruppo di ricerca Emilio di Treviri, di cui abbiamo avuto un'anteprima ai nostri microfoni durante il Festival Letteratura. Abbiamo anche il podcast se qualcuno non riesce ad andarci, però esatto. Andateci è meglio. Andateci. L'intento è aprire un dibattito in merito agli eventi sismici che hanno colpito l'Appennino centrale dall'agosto 2016 e riflettere sulla gestione del territorio e la situazione dei terremotati. Saranno ospiti alcuni membri di Emilio De Treviri che presenteranno il libro. Il materiale fotografico e video interverrà Tiziano Cordosi del Comitato No Tunnel TAV Firenze. Giovedì 8, Machine Funk 2019 al CSA Next Emerson, We Have Lift Off, dalle 21 alle 24, è un diario di bordo, venti di guerra agitano il continente, il vettore MF 2019 con a bordo Cosmonaut Selezionat e il payload segreto CBRFNK è sulla rampa di lancio, i robotecnici stanno operando gli ultimi controlli e presto la nave sarà sotto tensione indipendente. Non è una serata, è un progetto di produzione musicale condivisa. Condivisa, esattamente. Ripetiamo, giovedì al Next Emerson dalle 21 alle 24. Venerdì 9, libero ambulatorio di medicina popolare organizzato da comunità di resistenza contadina, Jerome Larons, piazza Torquato Tasso dalle 16 alle 19.30. Sempre venerdì, sempre alle 19.30. Allo spiazzo inchiostro Music for the People, il venerdì dello spazio inchiostro iniziano gli aperitivi musicali del venerdì sera allo spazio inchiostro, tutto a prezzo popolare e naturalmente il ricavato della serata andrà a finanziare l'apertura di un'aula studio autogestita nel fine settimana. Sempre venerdì Sballowin, plesso didattico Viale Morgagni, collettivo Rosso Malpolo, Arco Struen, collettivo Odice Rosso, collettivo Ingegneria filo da torcere, collettivo di scienze, collettivo laboratorio 15, studenti di sinistra. Insomma, una grande serata organizzata dai vari collettivi universitari. Sabato 10, grande appuntamento, donne contro la Lega, no al decreto Pillon. Organizzato dal collettivo Spine dalle ore 14.30 presso Piazza della Calza a Firenze. Il 10 novembre in tutta Italia le donne si organizzano e scendono in piazza per contestare il senatore leghista Simone Fillon e il suo disegno di legge. Anche noi abbiamo deciso di prendere parola. Per l'ennesima volta questo governo ribadisce la sua presa di posizione sessista nei confronti dei diritti della donna. Abbiamo avuto modo di sentire un attivista del collettivo Spine giusto una settimana fa e ha puntualizzato anche su questa faccenda qua. Sabato 10 invece presentazione Firenze No Cost più Lamiere Live, quindi la premiere ufficiale di Firenze No Cost, la guida antituristica più pazza che ci sia. Intervengono Marco Tangocci, Davide Di Fabrizio, Omar Salifaye, modera Chiara Ferragni. A seguire Lamiere propongono un live tendenzialmente futile tra le fughe di Bach e la foga di Fugazzi. Programma dalle ore 18 presentazione del progetto. Durante il tutto un live painting di Marcio Marco Fabbri. Ore 19:30 ci abbracciamo e ci baciamo, ci facciamo i complimenti. 19:30 si va di là che Chef Probo ci prepara un aperitivo cena fiorentino, che più fiorentino di così non si vuole. Ore 21 glorioso live della Miere. Alle 22 DJ set Brasile Electro Funk di Lorenzo H Bombo DJ. Alle 23:30 sgomberiamo e si chiude tutto. Senza gendarmi e senza pennacchio. Yes. Allora, sempre sabato 10, presso il CSA Next Emerson, Inner City Jungle Crew, il 20° compleanno, il party del 20° compleanno, e more, tutto benefit RCS è un'altra cosa, no, non lo nominiamo nemmeno. E appunto la Inner City Jungle Crew compie 20 anni, 20 anni di serate, 20 anni di passione per mantenere viva e salda la scena drum and bass fiorentina dal 1998. Per i festeggiamenti abbiamo voluto fare le cose in grande e creare tre aree musicali. Nell'area prima ci sarà Drum and Bass, Reggae, Inner City Jungle Crew e la Romola Sound System con il loro bellissimo impianto da 16K. Nell'area 2 Electronic Future Sound, OTK Sound. Nell'area 3 invece Soul, R&B, Cyberfunk, HHNGS, Afro e Electro a cura di Machine Funk. Il ricavato sarà devoluto ai ragazzi e alle ragazze della rete dei collettivi fiorentini. Domenica 11 invece Roda de Novembro dalle 10 alle 17 negli spazi della polveriera Spazio Comune. Questa volta inizieremo un po' prima, ci dicono. Maestro Ciuluca darà aula alle 10, dalle 10 alle 14, roda libera e aperta a tutti. Fateci sapere se venite all'allenamento, così possiamo organizzarci meglio. Grazie a tutti e tutte, e grazie a tutti e tutte gli ascoltatrici ed ascoltatori. Radio Wombat finisce la sua rassegna eventi. Per segnalarci eventi che volete farci raccontare, scriveteci apposta a wombat@insiberia.net. Detto questo, godetevi la settimana. Oh yeah! Rassegna eventi. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.